al comando dei nostri ufficiali. Caricheremo cartucce a mitraglia, ma se per caso il colpo si sbaglia, a baionetta l'assalto faremo. Ma se per caso il colpo si sbaglia, a baionetta l'assalto faremo. Tu nemico che sei tanto forte, fatti avanti se hai qualcuno ti lascia il passaggio. Noi altri alpini fermarti sapremo. E se qualcuno ti lascia il passaggio, noi altri alpini fermarti sapremo. O cari mamme che tanto tremate, non disperate per i vostri figlioli, che qui sull'Alpe non siamo noi soli. C'è tutta Italia che a fianco ci sta, che qui sull'Alpe non siamo.